451 frammenti sonori da Radio Città Fujiko. Una buona sera, o forse anche un buongiorno, perché no, qualcuno potrebbe anche avere l'infelice idea, ma mica tanto, speriamo che non lo sia, di ascoltarci di giorno tramite il blog. Comunque Max Macchia, insomma, vi saluta, ecco, in maniera così generica, così, se siete di corsa, non so, al parco col Walkman appunto di mattina, oppure se state girando con la macchina di sera, o se siete a casa, così, come dire, pronti a fare viaggi mentali anche paralleli a quelli di 451 frammenti sonori, sappiate, insomma, che vi saluta da queste parti appunto Max Macchia. Max Macchia, che questa sera per 451 frammenti sonori così vi guiderà dentro dei racconti che sono alimentati e assorbono anche tanta della vita concreta, narrato concreto il titolo della trasmissione, non a caso, narrazione attraverso il suono concreto, quindi lo storico, insomma, concretismo delle avanguardie, soprattutto francesi, ma che poi si sono trasformate nel corso dei decenni anche in sperimentazioni sonore, tout court, molte delle musiche, insomma, concrete sono entrate dentro l'ambient, dentro musiche noise, e anche, perché no, in alcuni casi dentro il pop. Si possono anche citare, insomma, esempi illustri di rumori inseriti dentro rumori concreti, inseriti dentro a musicalità pop, anche pezzi molto molto famosi, magari adesso non vi starò a dire, però andate a cercare, magari vi do così un'indicazione, ad esempio un vagito di un bambino registrato che fa da intro a uno dei pezzi più famosi di sempre. Vabbè, insomma, Stevie Wonder, non, come dire, volevo far scoprire, però ecco, Is It She Loves Me, è un pezzo che poi appunto partendo da un suono concreto dà una narrazione poi molto felice della natalità e della nascita appunto del figlio di Stevie Wonder. Ma non siamo qua per parlare, insomma, del figlio di Stevie Wonder, o appunto del grande comunque Stevie Wonder, ma appunto per trattare musiche. Magari qualcuno si starà, insomma, anche impressionando di quello che sto dicendo, poi in realtà dovreste sapere che da queste parti, insomma, e anche dalle parti di 451 intersezioni, la musica nera ci piace anche tanto. Questa sera non la tratteremo, però andremo a trattare non neanche il pop, musiche che riescono a narrare attraverso quello che è il field recording, la raccolta di un suono preso appunto dalla realtà concreta, più o meno trattato, a volte anche fatto ascoltare così com'è, oppure accompagnato da musicalità che diventano evocative, diventano anche molto spesso cinematiche, come poi d'altronde non potrebbe essere altrimenti, dentro una narrazione che va anche appunto a tingere da quello che è un suono, il suono che ci circonda tutti i giorni, o quello particolare che sentiamo in alcuni momenti, come quello preso da Matt Grafting per il suo bellissimo Recitals, disco di qualche mese fa, del 2014, che ci illustra prima in maniera del tutto particolare come si possa stare dentro un ambiente sonoro dialettico, nel vero senso della parola, non dialettica in termini hegeliani, ma in termini proprio di orarità, quindi suoni che vanno a incastrarsi dentro uno spazio che si fa soprattutto sonoro tramite appunto il vocale. E poi un altro pezzo da questo splendido Recitals, River, dove viene illustrato il suono del fiume, anche con una grande evocazione, uno dei punti, insomma, è uno dei momenti focali da sempre di un immaginario non solo naturalistico, visto che poi tutte le grandi città, anche quindi le grandi urbanità, sono attraversate dai fiumi, nascono sui fiumi. E quindi, per iniziare questo narrato concreto, Matt Grafting, personaggio abbastanza nuovo delle sperimentazioni sonore legato a un suono tra l'etereo e appunto una ricerca anche di concretismo nel vero senso della parola, quindi anche di field recording, e ha stampato con le Static Piece, quindi ha iniziato anche in maniera importante etichetta di Tastor Moore dei Sonic Youth. E poi per passare in tempi recenti anche, ma come succede a tanti artisti, ai CDR, quindi autoproduzioni a tutti gli effetti, per arrivare poi alla CAI, splendida etichetta che proprio in questi ultimi periodi ha pubblicato l'ultimo album di Matt Grafting, l'Infest. Noi andiamo a prenderlo appunto dal precedente Recitals, sia questa Weston che appunto il fiume di cui accennavo e che adora andremo a ascoltare appunto da questo nuovo autore sperimentale, Matt Grafting. ad accompagnare questo letto quasi legato appunto al flusso di questo fiume immaginario, questo fiume raccontato, narrato in maniera molto evocativa da parte di Matt Groening, anche l'accompagnamento prima ascoltato, quasi una sorta di viaggio dentro i fantasmi vocali di registrazioni chissà colte da quale meandro, magari anche meandro insomma della psiche di Matt Groening, quasi a volere appunto andare a ricercare sonorità che potessero insomma ricreare mondi scomparsi, registrazioni che ricordano sì, vecchie cantilene che poi vengono modificate, vengono dilatate, come appunto poi il tempo fa, e anche il tempo e i tempi dentro questo splendido lavoro di Recitals di Matt Groening fanno da spartiacque anche con quello che può essere appunto il narrato e il concreto, proprio il tempo che dilata la narrazione e rende astratta quasi il suono concreto, sia quello trattato direttamente dai vocalizzi di Weston, il pezzo che abbiamo ascoltato in apertura, e sia quelli che quasi in maniera invisibile, quasi il canto del fiume, del flusso appunto che danno i fiumi, che viene in maniera così poetica esposto da Matt Groening, quasi a cercare appunto un suono che possa appunto accompagnare un movimento incessante, continuo. E invece un personaggio che forse non è così direttamente insomma delicato come Matt Groening e Jason Lescalais, seppur raffinatissimo autore sia impro iper sottile con Perrin, ma anche con quella ricerca del soffio, dell'alito, anche proprio degli strumenti, non soltanto a fiato, veramente del microtocco che non è digitale in questo caso come in tanta musica glitch di ricerca, ma con Imperium insomma si è andato più a cercare invece quella strumentalità, quella microtonalità attraverso la strumentazione tra virgolette classica, non classica chiaramente utilizzata, se insomma avete più o meno idea di che cosa facessero in Perrin. Poi ha fatto faccende belle e interessanti con John Hudak, quindi più sulla sound art, per poi darsi negli ultimi anni anche a stridori musicali sia con il grande Aaron Dilloway, ex Wolf Eyes, quindi personaggio insomma che di pestaggi sonori e di noise ne conosce bene, ma lo stesso Lescalais, passando appunto dalle microtonalità si sposterà verso un suono macro in molti lavori degli anni 10, tornando anche sulle collaborazioni con Aaron Dilloway e anche con un personaggio che troveremo dopo, Gran Lampskin, che per tanti versi fa un discorso parallelo appunto a Jason Lescalais. Tra l'altro Lescalais è iper prolifico negli ultimi anni, dischi sempre improntati su una ricerca tra micro e macro, e dentro questo Match to Demise del 2014 va a trattare anche un suono che parte da momenti anche molto, molto micro, molto sottili, per poi diventare anche piuttosto non furioso ma pieno, appunto sempre in questa strana dialettica che riesce a creare Lescalais da alcuni anni, da una quindicina di anni, con le sue produzioni. Andiamo a ascoltarcelo quindi da questo disco Match to the Mice, Tragedy of Man, una narrazione quindi che ovviamente non può essere particolarmente felice, visto che si tratta di una tragedia vera e propria, però sonorizzato con quella sempre fantasia eccezionale e decisamente creativa di Jason Lescalais. rumori d'ambiente che fanno dell'opera di Jason Le Escalier, Match to the Mice, un lungo viaggio dentro anche momenti, insomma, che forse insomma, più che il titolo Tragedy of the Man ci portano lontano, ecco, lontano sicuramente con la fantasia, forse neanche poi in maniera così tragica come vorrebbe Jason Le Escalier, ma d'altronde gioca molto sugli opposti da sempre, tra appunto micro macro, come appunto avete sentito un suono acustico chitarristico, un vocalizzo e poi suoni ambientali che fanno da sottofondo a questo viaggio sonoro e diventino poi di fatto, insomma, un suono che si trasforma appunto in un suono piuttosto pieno, quasi quasi a voler sfondare, insomma, anche le strumentazioni tecniche, quasi a voler forzare appunto la macchina sonora e comunque a narrare appunto forse in questo senso, insomma, c'è una simbiosi tra suono che si riempie e questo appunto viatico tragico appunto raccontato dentro Tragedy of Man di Jason Le Escalier. E se dobbiamo parlare, insomma, di narrato concreto, ma potremmo anche parlare di concreto come dimensione esistenziale tout court, beh, non si può non parlare, non accennare perlomeno al Fluxus. Poi in realtà questa sera avremo modo, insomma, non soltanto di accennare alcuni personaggi del Fluxus, ma anche proprio di ascoltare alcune cose di uno dei movimenti d'avanguardia più interessanti della neo-avanguardia negli anni 60 in America, parte questo grande movimento dove ci sono passati personaggi come John Cage, la Monte Young, ma poi sono veramente stati attentissimi a attraversare tutto il mondo, anche attraverso una relazione vissuta di fatto, il Fluxus era questo, portare l'arte dentro il vissuto e il contrario, il vissuto dentro l'arte, fare un tutt'uno, sciogliere completamente quello che erano le barriere anche artistiche per far diventare la vita di fatto, insomma, artistica e appunto l'arte vita, quello che è stato anche il grande sogno di molte avanguardie storiche, col Fluxus per alcuni aspetti non totali, anche perché sennò vivremmo in un'altra società, però di certo, insomma, sono stati toccati, anche appunto vissuti. Andiamo ad ascoltare Harry Christiansen, che attraverso musiche che si sono cibate veramente tanto di reale, di concreto, di vita vissuta, quindi non soltanto i field recording, che all'epoca non era field recording, era registrazioni sul campo, per rendere la composizione un altro sonoro, quindi riprendendo anche i francesi, Pierre Henry, Schaffer, eccetera, Luc Ferrari, ma anche proprio per portare questa dimensione appunto vitale, esistenziale, direttamente dentro anche la forma artistica, in questo caso supportata da un prodotto di fatto industriale come quello appunto del vinile, anche se poi molte cose vennero fatte in cassetta, ma non cambia, sempre un supporto, e quindi anche in questo senso portare la vita dentro oggetti che potrebbero sembrare inanimati, questo un po' poi la grande utopia cercata, ricercata e anche attuata per tante faccende artistiche, non solo di Fluxus. Harry Christiansen lo andiamo a ascoltare da un lavoro del 1993 edito in cassetta, tra l'altro citando un altro grande del Nord Europa. Christiansen viene dalla Danimarca, da Copenaghen, Citare Joseph Beuys ci sembra insomma più che opportuno, artista tedesco che ha fatto del reale, della vita vissuta su serie un'opera d'arte, e alcune volte l'ha proprio distrutta in quanto appunto la vita ha sommerso anche la concezione estetica di opera d'arte, come succede in questo Kreutz Music di Erik Christiansen, che ci porterà insomma dentro suoni che vanno a cercare tanto quella ambiance naturale, anche pastorale in alcuni momenti, e come appunto elemento assolutamente vitale anche per molti aspetti vitalistico. Das Licht vom anderen Fenster. Das Licht vom anderen Fenster. 17. Christiansen del suo Kreutz Music, un ascolto sicuramente non semplicissimo, legato soprattutto a un tuffo in quello che è il momento reale, seppure dilatato. Si lavora moltissimo con gli echi sonori e questo ambiente pastorale che in un primo momento sembra invaso quasi, poi in realtà è quasi l'ambiente pastorale che invade invece anche la struttura sonora, con questo rumore riverberato che dà un senso molto appunto forte di ambiente vissuto e registrato lì proprio sul campo, riportandoci appunto questo senso appunto esistenziale forte, legato, se vogliamo, per molti aspetti all'happening, a quello che è appunto lo stravolgimento, la grande anche rivoluzione del portare la vita in maniera violenta dentro la performance artistica e viceversa, cioè farli fondere, unire per arrivare insomma a un tutt'uno che Eric Christians insieme al Fluxus ha perseguito per molti anni. E è un personaggio americano che per tanti versi riprende anche da sperimentazioni di questo tipo, se vogliamo chiamare sperimentazioni, poi in realtà potremmo anche chiamarle appunto narrazioni concrete nel vero senso della parola, proprio perché esistenziali, date da un attraversamento reale, personale, fisico anche proprio della realtà appunto in cui viene compiuto il gesto sonoro, il gesto artistico. Vanessa Rossetto, appunto compositrice americana, che in questo Wall Story racconta, anzi fa raccontare la storia e fa narrare questa storia insomma decisamente legata alla strada da parte di una prostituta che fa un tutt'uno poi con appunto la sua esistenza e quello che poi l'oggetto estetico, che va oltre appunto anche questa estetica, raccontandoci appunto, quindi narrando, sfondando anche appunto il mero prodotto, anche non soltanto fisico ma proprio in termini proprio estetologici, e lo fa Vanessa Rossetto appunto compiendo questa operazione decisamente realistica, che ci porta dentro un mondo ai più sconosciuti, ma soprattutto dentro una narrazione vissuta concretamente, scusate il gioco di parole, ma proprio di fatto, e così accompagnando questo racconto con un suono che tante volte riesce a trattare, insomma, nei vari dischi tra la fine dei 2000 e i nostri giorni. Vanessa Rossetto compie dei lavori di pittura musicale, tra l'altro è anche di fatto, insomma, una pittrice, ma anche musicalmente sembra quasi colorare appunto una tela musicale con in questo caso il racconto e appunto il disegno esistenziale di questa prostituta dentro questo Wall Story che appunto andiamo a ascoltare da parte di Vanessa Rossetto.